Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America. Da aprile a novembre mi trasferisco con... Lunga quest'estate sua, Stefano, eh? Abbastanza, è californiana, quindi... Disclosare. Disclosare, ai tempi dello scudo si scudava. È vero, bravo. E al tempo della voluntary si deve disclosare. Buon divertimento con tutte Grazie, queste novità. Buona disclosure. Primo ascoltatore della settimana. Buongiorno Ermanno. Già solo per questo si meriterebbe dei premi. Dei grazie, libri. Io lo aspetto il premio. Ma sì, che certo. Ogni promesso è un debito. Volentieri, allora due libri. Ci dica Ermanno. Complimenti. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E a proposito di rumore, inizio subito con una richiesta. Prestate orecchio a questi suoni e cercate di capire se vi sono familiari, più che familiari, intimi, se qualche volta o di frequente vi tengono compagnia e se vi infastidiscono. Iniziamo. Sentite qualcosa di simile a questo? O invece avvertite una cosa simile a un soffio? Sentite. O a disturbarvi è un suono acuto come un fischio di una sirena o quello del bollitore di casa vostra? O invece, vero che fastidio, eh? O invece un rumore bianco come di sottofondo? Allora, con l'aiuto di Carmelo Lauricella, che ringraziamo in regia, noi abbiamo cercato di riprodurre suoni, fischi, ronzii, soffi che disturbano la vita di molte persone. Si chiamano acufeni, ne abbiamo parlato tante volte, ne parleremo oggi nel corso di questa puntata con un grande esperto, il dottor Sandro Burdo, che torna a trovarci, medico, audiologo e consulente audiologo degli istituti clinici di perfezionamento di Milano. E questa è anche un'ottima occasione per fare il punto anche sulla salute del nostro udito. Quindi l'invito è rivolto anche a chi per fortuna questi rumori, questi fischi, questi ronzii non li avverte, ma ha la sensazione che l'udito a volte perda un po' qualche colpo. 800 24 00 24 se volete prenotare già sin d'ora i vostri interventi, ma preparatevi anche per la seconda parte della trasmissione. Per la pagina di denari vi porterò in condominio, non per parlare di suoni e rumori molesti nei nostri palazzi, ma per concentrarci su un altro grande tema, le spese da affrontare e le famigerate assemblee. Pare sia sempre più diffusa l'abitudine da parte dei condomini di disertarle per far mancare il quorum e rimandare le spese di manutenzione straordinaria. Sicuramente all'origine di questo fenomeno ci sono le difficoltà economiche di tanti italiani, ma questo non è sicuramente il modo migliore per affrontare il problema, perché si creano tantissimi disagi. Ne parleremo insieme nella pagina di denari e capiremo come ci si può comportare in questi casi, quali possono essere le soluzioni. Allora 800 24 00 24, raccontateci se anche nel vostro condominio si fa un po' fatica a prendere una decisione perché le assemblee vanno deserte. Chi è? Orecchio. C'è un po' di cerume dentro orecchio, non c'è sede. Bene, vediamo un po'. Ammazzo, lo chiami cerume, questo è fango, tu sei sordo. Ma orecchio mica è questo, è quest'altro. Dici? Vediamo. Dai, è peggio, lavaggio. Lavaggio. Col sapone. Acufeni, in altre parole fischi e ronzini nell'orecchio, ne abbiamo parlato tante volte, ma la sensazione è che ci sia un po' un vuoto di informazione o di chiarezza, e troppo spesso il paziente finisce con il peregrinare da un medico all'altro senza trovare alcuna soluzione e alla fine, sfinito, accetta di convivere con questo disturbo. Allora qualcosa non torna, allora proviamo a capire che cosa insieme al dottor Burdo. Buongiorno dottore, che è tornato a trovarci. Buongiorno a voi. Dottore, allora, possiamo dire che gli acufeni acufeni è una parola dai mille suoni diversi, così almeno a sentire le descrizioni che vengono fatte da chi ne soffre, perché c'è chi parla di ronzio, chi di fischio, chi di pulsazione, chi di soffio, dottore. Assolutamente, gli acufeni possono essere di vario tipo. La cosa importante da sottolineare e su cui bisogna insistere è che l'acufene nella maggior parte dei casi, ma proprio nella gran maggioranza dei casi, è un sintomo di una patologia. Quindi sfatare il mito che l'acufene sia qualcosa di sconosciuto. L'acufene è l'effetto, è il sintomo di qualcosa che non funziona o nell'orecchio o vicino all'orecchio. Queste sono le due possibilità. E noi lo scopriremo strada facendo con naturalmente le domande dei nostri ascoltatori. Dottor Burdo, in alcuni casi la persona avverte un rumore all'interno dell'orecchio che va a ritmo con il battito cardiaco. Il cuore è rimasto al suo posto, lo sappiamo, ma non sappiamo come mai lo sentiamo battere dentro l'orecchio. È un acufene anche questo? È un acufene anche questo, sincrono con i battiti cardiaci. C'è un altro tipo di acufene interessante che è sincrono con il respiro, poi se volete ne parliamo. Questo sincrono con i battiti cardiaci è abbastanza semplice da spiegare. L'orecchio medio, che è fatto come una stanza, sì. Osservate la vostra stanza, sì. Sotto il pavimento c'è la vena giugulare. La vena giugulare sotto il pavimento dell'orecchio medio fa un golfo, cioè ruota su se stessa, e se il pavimento osseo dell'orecchio medio è particolarmente sottile, il battito cardiaco viene trasmesso all'orecchio medio, quindi noi lo sentiamo rimbombare come il vicino che picchia col manico della scopa sotto il pavimento. La sensazione è quella. Attenzione, può essere una malformazione, chiamiamola così, di modesta entità, ma può essere anche una malformazione importante, cioè può mancare completamente il pavimento e quindi la vena giugulare essere all'interno dell'orecchio medio, come se il pavimento fosse sprofondato, per intenderci. Come si fa? Allora qui ci vuole una diagnosi, certo. La diagnosi la fa lo specialista osservando con il microscopio, quindi non solo con l'occhio nudo, con il microscopio la membrana timpanica, perché la membrana timpanica appare di un tipico colore blu, che è perché proprio dietro la membrana timpanica c'è la giugulare che... Quindi possiamo dire, dottor Burdo, acufene da pavimento sottile, chiamiamolo così. Perfetto, chiamiamolo così e sentiamo il battito cardiaco. Così noi possiamo avere nello stesso tempo una tuba, la tuba di Eustachio, che mette in collegamento l'orecchio con il naso, sì. Che è aperta sempre. Noi, notoriamente, noi sappiamo che la tuba è generalmente chiusa e la apriamo tutte le volte che deglutiamo per compensare la pressione esterna. Sì. Ora, ci sono delle persone che hanno la tuba sempre aperta, si chiama beante, sì. E quindi il respiro entra come se fosse la finestra sempre aperta nella stanza di cui abbiamo accennato prima come esempio. Certo. E quindi sentiamo il nostro respiro e questa è la tuba beante. Quindi ci sono acufeni che dipendono da un pavimento troppo sottile o da una finestra sempre aperta. Perfetto. E quindi sempre aperta. E quindi noi sentiamo questi acufeni che sono sincroni con il nostro battito, il battito del nostro cuore con il nostro respiro. E quindi perfetto. In continuazione 800 24 00 24 se vi riconoscete in questo profilo, ma anche se volete raccontarci quali rumori disturbano se avvertite all'interno dell'orecchio, ma anche per avere delle indicazioni sullo stato di salute generale del vostro udito. Andiamo subito nella provincia di Imperia, ci chiama Luigi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a entrambi, al dottore e a lei. Grazie. Complimenti per la trasmissione. Posso parlare? Certo, noi siamo tutte orecchie, come si dice. Grazie, buongiorno. Come ho detto poc'anzi, io ho 5-6 anni che ho questi acufeni da entrambi le orecchie. Problemi forse di gioventù che non per il lavoro, vabbè, non sto a dilungarmi perché ci sono altri. E allora sono andato dall'ottorino ed è stato molto bravo, praticamente mi ha dato delle vitamine per le orecchie, che le prendo 3 mesi sì e 3 mesi niente, 3 mesi sì, poi me le cambia e mi sono le sento ancora, ma meno che 4-5 anni fa. Grazie Luigi, quindi con le vitamine il disturbo si è quasi annullato. Dottor Burdo, è stato bravo questo suo collega? È stato bravo, il paziente però non ha specificato, l'ha solo secondo me accennato che molto probabilmente lui ha una sordità insorta in giovane età, così mi sembra di aver capito. E questo perché lei ha anche l'orecchio clinico, vede, dottor Burdo, lei coglie cose che noi non riusciamo a intercettare. Il maschio adulto quando entra in studio non dice mai sento un po' meno, dice ho gli acufeni, che spesso giustifica la non comprensione non con il fatto di avere una sordità che può essere modesta anche, ma lo giustifica con il fatto che ha gli acufeni. Cioè, spesso si sentono questi signori che affermano ah, non capisco perché ho gli acufeni. Molto probabilmente avere gli acufeni rende la cosa meno drammatica rispetto a una sordità. Ora, di fatto, ci sono il vissuto dell'acufene come noi lo sentiamo dipende da due fattori: una oggettiva, l'acufene che esiste, e poi il vissuto dell'acufene, che è l'equivalente del dolore. Cioè dipende, quindi la percezione di come lo sentiamo dipende dallo stato emotivo. Se io sono molto nervoso il mio acufene aumenta l'intensità, in realtà non varia ma io lo sento molto più forte. Quindi ci sono anche queste componenti, chiamiamole psicologiche, certo, che vanno a giocare sul fastidio che dà l'acufene. Quindi sappiamo che non esiste il dolorimetro, non esiste neppure il fastidiometro, alcune persone hanno una ipersensibilità nei confronti di questi rumori interni, altri invece riescono a convivere magari utilizzando degli stratagemmi che invitiamo a raccontarci in diretta all'800 24 00 24. E noi andiamo nel frattempo a Piera che ci chiama da Savona. Buongiorno Piera. Buongiorno dottoressa. Io sono Nicoletta per lei e per tutti gli ascoltatori. Sì, bene, grazie Piera. Nicoletta, grazie. No, le volevo dire che io avrei bisogno di sapere qualche cosa. Guardi, io da un orecchio sinistro, solo dall'orecchio sinistro sento stessamente quando sono in riposo, come se dentro avessi delle pietruzze, ma microscopiche, sì, che mi danno un po' questo fastidio dall'orecchio sinistro. E poi c'ho frequentemente da tutte e due qualche acufene, sì, ma questi rari non mi danno fastidio, è un gran prurito. E io le orecchie cerco di non metterci il bastoncino perché non ho tanto ceruma, ma insomma. Ecco, ora volevo dire solo una cosa, io ho 70 anni, ho una fibrillazione atriale per quanto riguarda il cuore, così che può servire, non lo so. Ecco, e poi c'ho un po' di artrosi, mascellare qui sempre dalla parte sinistra, ecco, tanto per dare tutte le indicazioni al dottor Burdo che ci aiuterà a capire che cosa sono queste pietruzze nell'orecchio. Ma è una cosa stranissima, guardi, io 2 anni fa sono stato per l'udito, ce l'ho perfetto. Vede? Adesso sentiamo il dottor Burdo che cosa ci dice, allora, perché queste delle pietruzze, guardi che sono arrivati già anche alcuni messaggi sulle pietruzze nell'orecchio. Sulle pietruzze? Le piacciono le pietruzze, sì. Ho visto che c'è stato un momento di moda, pietruzze, otoliti e così via, tra i miei colleghi, anch'io ovviamente, quando sono state descritte le funzioni degli otoliti. Per il modo, nella signora, ci ha parlato di un prurito all'orecchio. Allora, tutte le affezioni dell'orecchio possono essere cause di rumori, di acufeni. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Cioè, un orecchio, scusate il termine, ma ci intendiamo, scassato, può fischiare, può produrre dei rumori. Anche l'orecchio esterno. L'orecchio esterno, quindi la cute, se c'è del prurito, può essere, la signora non è più giovanissima da quello che ho capito, quindi ha una tensione, ha una pelle probabilmente un po' atrofica, ci possono essere due possibilità, o ha un eczema che provoca il prurito, o ha una patologia micotica, questo sarà il medico, il suo curante. Proprio ieri col professor Carlo Gelmetti abbiamo parlato di prurito. Ma non abbiamo parlato di prurito all'interno dell'orecchio, che è particolarmente fastidioso. Comunque, questo può, è. Può avere anche del cerume, ad esempio, adeso alla cute. Ripeto, in un anziano dà più fastidio che non in un giovane, perché la cute è molto tesa ed è atrofica, quindi è più fastidiosa. Sì. Allora, che cosa fare? Se c'è un fungo è chiaro che va fatta una, va intrapresa una terapia, certo, antifungina, e via. Deve fare lo specialista. Se invece non c'è un fungo e c'è una piccola eczema, il consiglio è di lenire, come si può dire, la irritabilità della cute. Sì. Noi consigliamo di fare, allora, un sacchetto di camomilla in un dito d'acqua. Quando è tiepida ci si bagna l'orecchio con una bambagia imbevuta di questa camomilla iperconcentrata, generalmente c'è sollievo e dovrebbe anche creare sollievo a queste, chiamiamole, petruzze che fanno rumore, perché possono essere benissimo, è la cute mista a un po' di cerume che può muoversi all'interno e quindi creare questo fastidiosi sassolini. Ma lei, dottor Burdo, aveva parlato degli otoliti e ci aveva detto c'è stata per un po' di tempo la moda. Questi otoliti che possiamo paragonare a dei sassolini possono infatti uscire dalla loro sede, andare fuori posto, è così? Sì, possono andare fuori posto e creare delle vertigini. Sì. Sono le famose vertigini posizionali benigne, e benigne significa tutto, ci intendiamo che non è una patologia grave, sono vertigini che durano dei secondi, quindi non più di 10 secondi per intenderci, sì, brevissime, molto fastidiose e sensibili al movimento del capo. Questi sassolini fuori posto vanno rimessi in ordine con delle manovre particolari, come rimettere a posto la ghiaia nel giardino, per intenderci. Certo. Quindi con dei movimenti particolari lo specialista questo tipo di patologia vertiginosa nel 90% dei casi riesce a sistemarla in breve tempo. Allora, 800 24 00 24, parlando di udito, parliamo, apriamo porte e finestre ad una serie di argomenti che all'udito e all'orecchio sono strettamente connessi. Chiamateci se soffrite di acufeni, chiamateci per dire dove avvertite l'acufene da entrambe l'orecchio, da uno solo, se riuscite a mascherare, se ha un suono acuto grave, se è puro, se è fatto da rumori tra di loro un po' complessi, se è stabile, ritmico, sincrono, come abbiamo parlato in apertura la trasmissione, sincrono quindi con il ritmo del nostro cuore, del nostro respiro. Ma diteci anche se ci sono delle situazioni, delle condizioni in cui avete proprio la sensazione di sentirci meno. Ad esempio, il vostro orecchio si tappa come quando salite in quota, anche quando siete a livello del mare. O avete l'impressione che dopo quell'otite che avete un po' trascurato, il vostro udito non sia più smagliante. O se ci sono dei rumori a voi particolarmente fastidiosi. 800 24 00 24, andiamo da Nicolò che ci chiama da Pisa. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno Nicolò. Allora, il mio problema è che io soffro da 5-6 anni di acufene, delle frequenze piuttosto alte, e normalmente la sera quando vado a letto mi dà parecchia noia. Sì. La mia domanda anche è riferita se può avere un qualcosa di ereditario, perché mia madre, che è morta a 95 anni, perfetta, di salute e tutto, l'unico problema che aveva lei è appunto che negli ultimi 6-7 anni soffriva di acufeni anche lei. Sì. E mi raccontava sempre che sentiva un fiume che gli scorreva nelle orecchie. Eh sì, perché ciascuno ha un suono diverso, c'è il ruscelletto, c'è il fischio del bollitore, c'è il soffio. Grazie Nicolò da Pisa. Dottor Burdo, c'è una Nicolò sorta di... Nicolò da Pisa però non ci ha detto se ci sente bene o no. I maschi non lo dicono, allora, se negano sempre. I maschi lo negano, mentre le donne sono più sincere da questo. Assolutamente. I maschi lo negano, soprattutto, e poi, come si può dire, fanno outing quando arrivano alla terza età, che è troppo tardi perché ci si è dimenticati com'è l'ascolto normale, la memoria uditiva viene a mancare e così via. Allora, la cosa importante è dichiarare di sentirsi meno, questo è il punto. Ma tante volte, dottor Burdo, non abbiamo la sensazione, cioè facciamo fatica a capire che sentiamo meno, ci adattiamo un po', non è per salvare sì, i maschi, no, certo. Ma è difficile. Questo è vero in alcuni casi, quando non si ha la perfetta conoscenza del significato di sordità, tant'è che alcune persone che sono effettivamente sorde, se lei le fa rientrare nella categoria dei sordi si offendono. Tant'è che è stata creata addirittura la società degli ipoudenti, che sono i diversamente udenti, diversamente abili, diversamente magri, sì. Ci intendiamo, sì, le persone certo. Che hanno in realtà questi problemi. Allora, perché dico questo? Dico questo perché l'acufenia è una conseguenza nella maggior parte dei casi di una sordità. Noi possiamo anche non accorgerci di essere, oppure non avere la coscienza di essere sordi in caso di sordità che colpiscono soprattutto le frequenze acute, per cui noi sentiamo ma non capiamo. In realtà non discriminiamo, non è che non capiamo, non sì. Discriminiamo. Allora, l'acufene, essendo un sintomo, può essere sicuramente un campanello d'allarme di sordità, quindi della sordità. Quindi nel momento in cui io percepisco l'acufene, la prima cosa che devo fare è un esame d'udito. Cuore e denari. Io a Roma abito in un condominio. A fianco a me c'è una vecchietta che tiene il televisore altissimo. Fortuna che ci abbiamo le pareti di carta velina, così riesco a abbassare il volume suo col telecomando mio. E quando facciamo le riunioni è un incontro di wrestling. L'amministratore ci perquisisce in tenuta antisommossa. Una volta la signora Bartolini fa: signora Bartolini, senta, la dentiera la lasci qui, questa è arma da taglio. E in tasca che c'ha? La dentiera di mio marito, non poteva venire, mi ha dato la delega. Oggi stiamo parlando dell'orecchio, di tutti quei rumori e fischi, sibili, ronzii che sono considerati dei veri e propri disturbi per l'apparato uditivo di alcuni di noi. E sappiamo che se c'è un luogo in cui i rumori e i suoni possono davvero essere determinanti per mantenere o meno gli equilibri tra le persone e il loro quieto vivere, quello è il condominio. Voi partecipate alle assemblee condominiali? Ne abbiamo parlato spesso insieme a Deborah, perché è una situazione in cui viene messa a dura prova la nostra pazienza, la nostra capacità di prendere decisioni insieme alle altre persone e molto molto altro ancora. Purtroppo per questo però sono momenti in cui è importante essere presenti, eppure pare che siano sempre di più i casi in cui molti condomini le disertano per far mancare il numero legale e quindi bloccare le spese di manutenzione straordinaria. Così però, lo sappiamo, non si risolve nulla, il disagio resta e nel palazzo naturalmente crescono le tensioni. Capita questo anche da voi nel vostro condominio? Siete voi a trovarvi in difficoltà, magari nel sostenere una spesa che vi sembra eccessiva? Iniziate a raccontarcelo all'800 24 00 24. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Il silenzio a volte è peggio del rumore, che perlomeno copre brulicare delle idee. Il silenzio a volte è peggio del rumore, canta Max Pezzali, e sicuramente chi soffre di acufeni lo sa bene, come sappiamo che quando siamo particolarmente preoccupati tutto viene amplificato, è come se i sensi si allertassero e tutto diventa più grande, pensieri, suoni. Allora sembrerebbe da dire che chi soffre di acufeni sia destinato, per parafrasare il celebre bestseller, alla solitudine dei propri rumori. Solitudine, incomprensione. Allora qui ci vuole un neurologo, e allora abbiamo chiamato il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, bentrovata, grazie. Oggi insieme al dottor Burdo, che è in linea con noi, stiamo parlando di acufeni, di rumori, e vogliamo anche fare un po' un check del nostro udito. Ma professore, ci faccia capire bene, che rapporto ha il cervello con i rumori? È un rapporto un po' ambiguo. Per la verità il cervello sa gestire il rumore, anzi può sfruttarlo, a volte incanalarlo. Dico ambiguo perché ci sono gli insonni che tengono la televisione accesa in camera, che certo non è sempre un bel sentire per poter dormire, ma sostanzialmente il cervello con il rumore acuto ha un rapporto che potremmo chiamare finalistico, uno sparo per scappare. E quando si fa quello scherzo da quello scherzaccio da liceale di far esplodere la bustina del cornetto alle spalle di qualcuno, si induce un fenomeno neurologico chiamato il mio clono. Può essere utile, i centometristi scattano i blocchi meglio se lo sparo è con la pistola e non è un bau fatto, non so, così artigianalmente. Sul dolore cronico, sul rumore cronico, il cervello riesce, per parafrasare anche l'aspetto dell'acufene, in parte a infischiarsene. Perché? Perché mette in atto un meccanismo strano chiamato meccanismo dell'abitudine. Noi quando siamo sul treno, dopo un po' non sentiamo più i segmenti tutun tutun tutun tutun dei vari binari. Questo perché tanto più aumenta la stimolazione acustica dai 40 ai 70 decibel, per esempio è stato dimostrato, tanto meno il cervello risponde. Attenzione però, deve essere un rumore cronico ripetitivo. Quindi siamo in grado di infischiarcene di un suono non esattamente melodioso, purché sia ripetitivo. Ma c'è un ma. Questa nostra capacità di sfruttare e incanalare il rumore può sfuggire quando? Innanzitutto quando il rumore ecceda la misura, quando abbiamo poche energie o quando abbiamo troppi pensieri. Perché alcune volte, e questo è tipico dei pazienti con acufeni che a volte cercano a cercare ristoro dal neurologo, non si riesce più a capire se il rumore ci sia, il rumore lo senta o il rumore lo pensi. Sì, perché il pensiero e la memoria hanno un peso e hanno un rumore. La ruminazione mentale è un qualcosa che, lo sanno bene gli ansiosi e gli ossessivi, può determinare una sorta di brusio dentro la testa che li fa sentire veramente molto disagiati. Allora, professor Barbanti, ci tiri fuori lei da questo caos, posso dire così, così rumoroso. Urge un consiglio, una raccomandazione, Provo a darlo anche se questo è proprio difficile. La prima cosa direi, non giocare con i tappi auricolari, che sarebbe la prima cosa a cui uno va a pensare. Beh, mi tappo le orecchie, perché se ci abituiamo al paradiso artificiale del silenzio assoluto, questo ammesso che sia un paradiso, sì, e poi incominciamo a sentire anche i moti molecolari, cioè siamo nella condizione di ipersentire tutto. Allora puntiamo piuttosto a potenziare questo fenomeno innato del nostro cervello dell'abitudine, e cioè il cervello non vuole stare a sprecare rispondendo ogni volta agli stimoli uguali. E allora il fenomeno neurofisiologico dell'abitudine può essere facilitato dai cosiddetti potenziatori metabolici, che sono molecole ora chiamate nutraceutiche, perché sono sostanze presenti normalmente nei nostri alimenti, che però devono essere supplementate a dosi molto alte. Vanno molto in voga per esempio nella cura preventiva del mal di testa e della fonofobia, oltre che della fonofobia, dei soggetti emicranici. Sono la riboflavina, che è la vitamina B2, e il coenzima Q10. Gli ascoltatori diranno, ma dove si trovano queste cose? Si trovano variabilmente dalle uova, al pesce, alla carne e nelle verdure, ma ne dovremmo mangiare tonnellate. Ebbene, però mi piace chiudere con questo consiglio. Da un lato esponiamoci in una qualche maniera ai rumori, senza dubbio non parlo dell'operaio metalmeccanico che usa o chiusa il martello pneumatico, ma per altro verso il potenziare la nostra capacità energetica può renderci capaci di abituarci meglio al brusio della vita moderna. Allora, quindi spegniamo il brusio con la riboflavina e il coenzima Q10. I potenziatori metabolici cosiddetti. Mi piace. Grazie, professor Barbanti. Grazie a voi. Alla prossima. Il silenzio a volte è peggio del rumore, che perlomeno copre brulicare delle idee. E noi torniamo ad occuparci dei nostri fischi, dei nostri ronzii, ma anche del nostro udito. Professor, dottor Burdo, lei ha qualche domanda chiave da fare ai nostri ascoltatori, che possono così capire se il loro udito in qualche modo sta perdendo un po' di colpi? Quindi magari ce lo diciamo tra di noi, magari non lo dichiariamo, però intanto ci aiuti un pochino a riflettere. Ha parlato di suoni acuti, quando non riusciamo bene a distinguere, vero? Suoni acuti, suoni riprodotti artificialmente, l'ascolto della televisione, la difficoltà di ascolto della televisione, soprattutto dei film doppiati, Se si ha difficoltà, questo è uno dei primi sintomi di ipoacusia, chiamiamola così, cioè di sentire meno. Secondariamente il telefono, una volta si parlava di telefono, addirittura si usava l'orologio, no? Si portava l'orologio all'orecchio, oggi gli orologi sono elettronici, quindi non fanno rumore. Alcuni addirittura se ne sono accorti perché non sentivano più il telepass dell'autostrada. Altro, ma fondamentalmente è l'ascolto della televisione e l'ascolto multiplo, cioè quando siamo a tavola con più persone e si ha la difficoltà a seguire la persona che sta parlando, soprattutto nei ristoranti o nelle pizzerie, peggio ancora. Dottor Burdo, tornando al nostro acufene, lei ha detto che è un po' un segnale di questo orecchio che è un po' scassato, possiamo utilizzare un po' questo aggettivo, e a volte nasconde, anzi evidenzia un problema di sordità. Ma quali sono le altre cause dell'acufene? C'entra l'articolazione temporomandibolare che molti ascoltatori stanno segnalando? Assolutamente, l'articolazione fa fine anche dire di avere una sindrome di Costen. Costen è un ricercatore del secolo scorso che identificò una triade costituita causata da un'articolazione temporomandibolare non perfettamente allineata, quindi diciamo non in bolla, per usare un termine da geometra e non da medico. Che provoca, attenzione, può provocare sicuramente degli acufeni, può provocare anche una sensazione di instabilità e qualche volta un po' di sordità, però questo è molto più raro. È molto frequente l'acufene, perché? Perché nell'articolazione arriva un legamento che si va dall'articolazione al ossicino del martello, nell'orecchio medio. Se l'articolazione è contratta, tira, fa contrarre questo legamento, e quindi provoca un acufene, perché mette in tensione il martello, quindi la catena degli ossicini. Tant'è che in alcuni casi basta riscaldare i muscoli masticatori, quindi quelli dell'articolazione temporomandibolare, per aver sollievo. Questo è il motivo per cui, ad esempio, alcuni trattamenti come il laser o l'elettroterapia hanno successo se applicati in quella sede, che non fanno altro che rilassare i muscoli masticatori. Quindi, dottor Burdo, possiamo dire che chi bruxa o chi ha una mala occlusione potrebbe, e avverte questo acufene, fischio, ronzio, eccetera, continuo a ripetere perché alcuni ascoltatori mi scrivono ma che cosa sono gli acufeni, potrebbe mettere in relazione queste due cose. Assolutamente, tant'è che l'odontoiatra attento spesso consiglia un bite durante la notte, proprio per evitare il bruxismo che mette in contrazione l'articolazione temporomandibolare. Anche l'ipertensione viene annoverata tra le cause di acufeni, ma non tutti gli ipertesi, dottor Burdo, avvertono ronzia alle orecchie. Anche in questo caso immagino ci siano delle considerazioni da fare. C'è una considerazione anatomica, quello che ci siamo detti prima. Prima del pavimento. Dentro la nostra stanza è pavimento, lì passa la giugulare. Attenzione, sulla parete interna è adagiata la carotide. La carotide, se aumenta la pressione, così come aprendo un rubinetto violentemente dell'acqua sentiamo il flusso dell'acqua ben nitido, così la carotide provoca rumore perché la pressione è aumentata. Certo. Infatti, che questi appartamentini, questi monolocali hanno le pareti così sottili, dottor Burdo. Assolutamente. Mamma ecco mia. Perché, brava, lei ha identificato il problema, per cui l'iperteso con una parete, uno spessore osseo abbastanza importante non sentirà l'aumento pressorio, chi ha invece un osso più sottile in quella zona lo sentirà molto più facilmente. Ecco, però io vorrei aggiungere cioè l'acufene acuto quindi può essere un segnale d'allarme di un attacco ipertensivo, ma può essere anche, attenzione, il segnale di una sordità improvvisa. Molte persone si svegliano la mattina sorde in un orecchio, però sono un po' frastornate, non si rendono conto di essere diventate sorde e in realtà sentono questo acufene molto violento, che è il segno di qualcosa che è successo, qualcosa di grave è successo all'orecchio. Quindi in questo caso bisogna farsi ricoverare immediatamente, perché le sordità improvvise, che non sono rare, sono abbastanza frequenti soprattutto in questo periodo, possono ottenere benefici dalla terapia se vengono prese abbastanza in tempo. Presto. Certo. La terza possibilità di insulto acuto dell'udito, come si può dire, segnalato da un acufene, è la sordità da rumore. Sono in discoteca, sono vicino a una cassa, sento improvvisamente un fischio acuto come il sibilo di una sirena, vuol dire che sto diventando sordo, quindi mi devo allontanare dalla fonte di rumore. Oggi, dottor Burdo, vogliamo parlare di rumore, ma anche di quel senso di ovattamento, come se avessimo la sensazione di salire in quota, che molte persone avvertono. Ecco, anche qua bisogna capire bene che cosa si sente e cercare di fare le opportune distinzioni. Cuore e denari. Siamo tornati insieme in linea. Con noi abbiamo il dottor Burdo, medico audiologo e consulente audiologo degli istituti clinici di perfezionamento di Milano. Dottor Burdo, abbiamo parlato di acufeni e di rumori, parliamo dell'orecchio che sembra improvvisamente fare o avvertire il silenzio. L'orecchio tappato è fisiologico quando saliamo in quota, ma a volte questa sensazione l'avvertiamo anche quando siamo a livello del mare oppure stiamo facendo le nostre attività quotidiane, insomma non ci muoviamo ma l'orecchio ci segnala che qualcosa è cambiato. Come interpretare questo segnale? La domanda è sicuramente interessante, perché molti confondono l'orecchio tappato da tuba chiusa, cioè quella che si chiude quando noi saliamo in montagna, dalla sensazione di velatura uditiva che si ha nell'ipocrisia e nelle sordità appena accennate, per cui la sensazione è quello di avere l'orecchio un po' chiuso, sì. Tant'è che molti continuano a insufflarsi aria tappandosi il naso nelle orecchie, pensando in questo modo di risolvere il problema. Ecco, diciamo, realtà, loro sentono, diciamo che non è necessario. Non solo, può essere anche un po' pericoloso, non vale la pena farlo, perché in realtà sentono un po' meglio, perché creano una pressione positiva all'interno dell'orecchio medio, quindi diventano, diciamo, normudenti dal momento in cui erano invece prima ipoudenti, ipoacusici, sì. Ma la causa della sensazione dell'orecchio chiuso è una sordità iniziale. Diverso è invece il caso della tuba chiusa quando si sale in montagna o quando si sale in aereo, quando si decolla o si atterra in aereo. Perché? Perché la membrana timpanica, che è al fondo del condotto uditivo esterno, mantiene la sua posizione, perché c'è una pressione esterna che entra dal condotto uditivo, quindi dalla parte esterna che noi vediamo, che deve essere compensata dalle entrate d'aria che noi provochiamo nell'orecchio medio tutte le volte che deglutiamo o mastichiamo. Sì. In quel momento la tuba si apre e va a equilibrare la pressione esterna. Se la tuba non si apre, prevale la pressione esterna e quindi noi abbiamo la sensazione di orecchio tappato. Ecco, in questo caso la terapia, il trattamento da fare, il consiglio da dare è prima di tutto verificare che non ci sia una patologia catarale cronica che può creare dei problemi, quindi lo specialista o il medico anticurante è in grado di gestire questo, sì, ma se questo non c'è, la cosa da fare è imparare a deglutire, oppure quando si va in aereo Vede, io conosco un medico bravo, se vuole un consiglio? Ho fatto trattamento. Vede. Continuare a deglutire mangiando magari una gomma americana o succhiando delle caramelle, ecco, queste sono, il bambino piccolo ad esempio dargli il succhiotto. Il succhiotto, il biberon, certo. Sì. Allora, questi sono i consigli. Valentino, buongiorno dalla provincia di Venezia, benvenuto. Buongiorno. Grazie, buongiorno ai suoi ospiti, vi ascolto sempre quando è possibile. Prima di tutto volevo rispondere a una punto che aveva il vostro medico, che sì. Era io quando sono in presenza di molte persone o comunque molto rumore ho qualche volta difficoltà a capire quello che viene detto, i vari discorsi, però comunque ho su di mio questo fischio acuto costante come da teiera che si presenta da circa 6 anni che è riscontrato soltanto sull'orecchio sinistro e che avevo notato essere talvolta legato a situazioni di stress o quant'altro, ma che comunque non è mai calato. Non è mai calato. Lei ha fatto delle indagini, si è fatto vedere da qualcuno, sì, come si dice? E com'è? E, che, sì, e come sta il suo udito? L'udito sta bene, anzi talvolta mi ha detto che è troppo sensibile. E per il problema da acufene mi ha sempre risposto non c'è una soluzione definitiva, almeno quando avevo fatto quelle visite, appunto volevo chiedere se ecco, grazie Valentina per questa bella domanda che giriamo al dottor Burdo, spesso l'esperto che consultiamo ci dice, beh insomma, impari a conviverci, ma che cosa ci racconta la storia di Valentino? Sì, no, impari a conviverci non va detto, non va molto bene neanche a noi, non va bene perché poi alla fine, una volta che abbiamo identificato le cause, abbiamo spiegato al paziente, ci fanno anche dei tentativi terapeutici. Allora, io parto dal presupposto che l'ascoltatore ha un udito normale, quindi gli diamo per buono questo. Le difficoltà che lui ha nel rumore possono essere legate a una patologia centrale, sì, che si chiama auditory processing disorder, cioè un disordine della elaborazione della parola, sì, per cui abbiamo difficoltà soprattutto nel rumore. Okay. Questa è una patologia tra virgolette emergente, ma che è abbastanza frequente nei bambini, soprattutto quelli che hanno una patologia da iperattività, la famosa ADHD. Sì. Che spesso hanno delle difficoltà di ascolto nel rumore. Abbiamo ancora 30 secondi perché poi c'è il nostro GR, dottor Burdo. Quindi? Allora, la cosa importante è fare una diagnosi, una topodiagnosi precisa con, sì, i potenziali vocati, con la risonanza, anche la risonanza funzionale, e anche in questi casi si arriva a una diagnosi definitiva. Cuore e denari. E come l'universo, questo nostro condominio raccoglie uomini e diversità, ognuno ha la sua verità, chi c'ha ragione, chi non c'ha. E come canta Risa, il condominio è proprio un mondo, chi abita in un palazzo, grande o piccolo che sia, lo potrà confermare. Un mondo in cui ciascuno ha la sua verità, la sua posizione, in qualche volta per fortuna si riesce ad andare molto d'accordo, ma spesso ci si può anche scontrare, soprattutto di fronte a quelle decisioni che muovono molti denari. Se una volta però le diverse posizioni si scontravano nelle temute assemblee di condominio, ora sembra sempre più diffuso un'altra abitudine, quella di disertarla per far mancare i numeri necessari a deliberare, il quorum insomma. Sembra di sentire un servizio di cronaca parlamentare, invece stiamo parlando proprio delle nostre case e ne parliamo con il dottor Giuseppe Bica, presidente dell'ANAMMI. L'ANAMMI è l'Associazione Nazionale Europea Amministratori di Immobili. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Intanto vorrei fare una convocazione per i nostri ascoltatori. 800 24 00 24, raccontateci se nel vostro condominio c'è una decisione importante, che so, un lavoro di manutenzione straordinaria, ad esempio, che si rimanda da tanto tempo, e raccontateci il motivo. Vi è capitato che proprio le assenze, e metto tra virgolette, non casuali di una parte dei condomini alle assemblee abbiano bloccato, fermato una decisione o invece la stiano tuttora bloccando? E voi come vi siete comportati? Abbiamo naturalmente posto queste domande per invitarvi a raccontare le vostre esperienze. Mandateci anche i vostri messaggi al 349-238-6666. Dottor Bica, lei intanto ci racconti come avete fatto a intercettare questo sempre più diffuso assenteismo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di disturbi d'udito. Sembra che molti condomini facciano orecchie da mercante e non si presentino alle riunioni condominiali. Già, intanto la segnalazione ci viene da un gruppo di crisi che abbiamo nell'interno della nostra associazione. La nostra associazione è composta da 13.000 iscritti, quindi amministratori di condominio, e abbiamo un gruppo test, lo chiamiamo noi, di circa 1.000 amministratori di condominio che rappresentano uno spaccato di quello che è la vita in condominio oggi. Sì. Quindi abbiamo potuto sapere e vedere, toccare con mano che effettivamente c'è un assenteismo programmato dei condomini per sottrarsi, abbiamo purtroppo dovuto constatare, per sottrarsi a degli adempimenti che l'amministratore richiede, di interventi per esempio di manutenzione straordinaria nel condominio. E certo. Quindi facendo scendere i quorum previsti per la legge diventa impossibile attuare i programmi di manutenzione anche straordinaria che vengono proposti dall'amministratore. Abbiamo subito in linea con noi Pierluigi, pronto a raccontarci la sua esperienza, ci porta nella sua casa. Buongiorno Pierluigi, benvenuto. Buongiorno, grazie. Senta, io ho un problema un po' opposto. Noi dobbiamo fare dei lavori straordinari che sono rifare le facciate. Sì. C'è un gruppo di persone che va in giro a raccogliere delle deroghe e praticamente è come se fossero loro ad agire per conto dell'amministratore. Praticamente sono loro gli amministratori. Mm. Sono da 3 anni che andiamo avanti a spizzichi e bocconi a fare i lavori quando dovremmo fare un lavoro molto, molto più consistente e non si riesce a sbloccare perché questi, con raccogliendo le deroghe, hanno sempre la maggioranza. Cosa certo. possiamo fare noi minoranza? Noi minoranza, ci chiede Pierluigi. E soprattutto Pierluigi, ma lei con il suo amministratore ha parlato? Sì, ho parlato, ma lui praticamente niente. Niente. Allora, niente. Dottor Bicca, l'amministratore tace, gli altri condomini si organizzano. Mi sembra di capire che questo gruppo di condomini che intercetta deleghe in realtà va in assemblea, ma per votare contrario, questo è lo spirito, credo, con i quali vengono in assemblea. In realtà un po' il contrario di quello, come diceva appunto, esatto, Pierluigi l'aveva anticipato, una situazione assolutamente opposta a quella di cui parlate oggi, ma mi sembra che lo spunto di Pierluigi apra un po' la discussione, la riflessione su tutti quegli intoppi che in un verso o nell'altro possono in qualche modo rendere difficile prendere decisioni per il condominio. Quindi, ma diciamo che sicuramente è la mossa più corretta, cioè intervenire in assemblea per far valere il proprio pensiero. Non intervenire proprio significa bloccare la discussione, questo è il concetto essenziale, quindi molto più onesto intervenire in assemblea magari dichiarandosi contrario agli interventi o proponendone altri che non andarci proprio, questo è sicuramente. Quindi il consiglio che ma l'amministratore del condominio di Pierluigi non dovrebbe prendere un po' la situazione in pugno? Guardi, l'amministratore può in ogni caso anche ordinare lavori di straordinaria manutenzione anche senza il consenso preventivo dell'assemblea, ma questo solo in determinate situazioni. Ad esempio? Gli interventi minacciano pericolo a persone o cose. Esempio ricorrente è il crollo dell'intonaco dei cornicioni, per esempio. Ecco, l'amministratore può intervenire per demolire le parti pericolanti, però non può ricostruirle. Quindi dà la possibilità all'amministratore di rimuovere il pericolo imminente, certo. Ma sicuramente l'assemblea che dopo si dovrà pronunciare per poter operare il risanamento magari dei cornicioni stessi. Quindi l'amministratore demolisce ma non ricostruisce. Carla ci chiama da Milano, buongiorno, benvenuta. Grazie, buongiorno. Senta, che succede da lei? Nel mio, nelle assemblee alle quali devo assistere io ho una certa... direi preparazione amministrativa e mi rendo conto che accettano tutto i condomini anche se sono cose macroscopicamente sbagliate e l'amministratore naturalmente ne approfitta e quindi non è solo un problema di spese straordinarie che andrebbero viste anche per le caratteristiche tecnologiche tipo il cambiamento di una caldaia, nessuno si occupa delle leggi vigenti, nessuno si occupa e bisogna per forza subire perché qualcuno fa incetta di deleghe, qualcuno che magari è anche in conflitto di interesse e quindi diventa difficilissimo vivere in un'assemblea cercando di realizzare delle cose razionali perché c'è una mancanza di cultura di base dei condomini che non conoscono le leggi, non sanno cosa fare, tutto al più si limitano a dire sì sì sì poi non pagano e quindi si vede che la loro partecipazione sta nel non pagare, il loro no è non pagare, il loro sì è far bella figura quando sono in assemblea, quindi anche se ci sono tutti il problema non è mai superato per la qualità delle decisioni. Cosa fare? Ci vorrebbero dei corsi per i condomini, dottor Bicca. Sì, noi li abbiamo fatti all'epoca dei corsi per i condomini. Ecco, vede, bravi. I nostri ricorrenti, proprio per far capire ai condomini quali possono essere i loro diritti e soprattutto i doveri. Un condomino ben informato fa lavorare meglio anche il nostro amministratore di condominio. Allora, dottor Vica, ritornando al problema di Carla, e poi vorrei chiederle, dopo aver dato un'indicazione a Carla, di fare un piccolo ripasso di quello che i condomini dovrebbero sapere, in modo che allora, rispondiamo in questo... all'assemblea, ecco, la signora lamentava i condomini che fanno in certa di tele, che vengono in assemblea, magari deliberano e poi non possono pagare o non pagano. Ecco, questo è una situazione preventivata già nella riforma del condominio che responsabilizza in questo caso l'amministratore di condominio a perseguire sicuramente la morosità dei condomini per permettere di non avere nocumento a chi invece paga regolarmente le quote del condominio. Sì. Quindi l'amministratore è responsabile del mancato incasso delle quote condominiali, quindi i condomini possono essere oggetto di decreto ingiuntivo da parte dell'amministratore, che evidentemente tutela in questo modo anche i condomini. Gli altri che invece sono puntuali nel pagamento. Certo. Invece, a proposito delle deleghe, in realtà nelle deleghe, quando i condomini sono più di 20, ogni partecipante non può avere più di un quinto delle condomini e un quinto dei millesimi. Quindi il 20% in realtà, quindi in ogni caso è quello che l'amministratore dovrebbe poi, perlomeno il presidente dell'assemblea dovrebbe verificare se i condomini hanno il deleghe come permesso per legge. Carla diceva che i condomini poi alla fine, anche quando partecipano, sono talmente poco informati e poco forse interessati che poi alla fine, insomma, le riunioni, anche quando sono fatte, non sono delle riunioni che riescono a risolvere i problemi. E guardi, c'è una figura che cosa... sottovalutata del presidente dell'assemblea. Il presidente dell'assemblea in realtà è il vero responsabile della tenuta dell'assemblea stessa, quindi molto spesso la figura di questo presidente è sottovalutata, invece è la persona che veramente ha la responsabilità della legittimità della seduta stessa, non è quell'amministratore come erroneamente si pensa, è proprio la persona nominata tra i condomini che dovrebbe dirigere l'assemblea. Ma in realtà ci vuole anche una persona esperta a fare il presidente, perché deve conoscere i quorum con i quali si possono adottare le delibere. Sì. Quindi molto spesso il presidente dell'assemblea è il generale in pensione che se non gli si fa fare il presidente si offende. Quindi bisogna invece che il presidente sia una persona sicuramente molto preparata. Ritorniamo un po' al tema che ha ispirato questa seconda parte della pagina di Denari, insomma delle riunioni condominiali che vengono disertate proprio per evitare di arrivare al quorum e quindi prendere la decisione e mettere mano al portafoglio. Rimanda un giorno, rimanda all'altro, la situazione si incancrenisce e non arriva niente di buono. Si può in qualche modo sbloccare, dottor Bica? Voi avete evidenziato questa sorta di allarme, ma poi alla fine chi si ritrova descritto in questa situazione che cosa può fare? Bene, intanto essere condomini e partecipare all'assemblea è un pochino essere soci di una società di capitali, il fare viene stabilito nell'assemblea, se si trascura la gestione di questa cosa comune, in realtà le conseguenze sono possono certo avere anche aspetti tragici. È il caso per esempio dei quartieri bene di tutte le città, ci sono dei quartieri che notoriamente erano abitati in maniera eccellente, con condomini d'eccellenza, e oggi abbiamo le seconde e terze generazioni di quei condomini che hanno magari ereditato questo bene, ma che non hanno la possibilità di gestirlo. È un sì po' avere la Ferrari e non avere la benzina a disposizione per farla e qua cambiare. la crisi è questa sicuramente si è fatta sentire e continua a farsi sentire. Quindi i condomini devono prendere coscienza che disertare le assemblee non porta altro che magari fastidi più grandi in futuro, è sicuramente un deprezzamento del valore dell'immobile quando la manutenzione è trascurata. Quindi bisogna partecipare, farsi forza, vincere anche un po' le resistenze e scendere, fare la riunione, quindi magari incontrare anche dei condomini che non ci piacciono tanto, ma con cui bene o male si deve imparare a convivere. L'assemblea è proprio Maria Luisa. Nei corsi proprio che fa la NAMMI, diciamo sempre che il condomino che si incontra sul pianerottolo non è poi la persona che incontriamo in assemblea, perché questa si trasforma secondo certi parametri, tra l'altro ben codificati da alcuni psicologi che noi utilizziamo della Sapienza di Roma, che fanno capire ai nostri amministratori di condominio come comunicare con questi. Quindi è veramente, perché ci sono condomini da prendere con le molle, no? E sono diventati anche oggetto di studio di psicologi e di psichiatri. Marco, buongiorno da Padova e subito dopo Maria Luisa da Milano. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo chiedere una cosa. Io vivo su praticamente un condominio con appunto l'amministratore. E il problema nostro è che l'amministratore ha l'ufficio in una praticamente zona, come si chiama, ZTL, no? E fa diciamo due riunioni all'anno, una a mezzogiorno di mercoledì e una alle 2 del pomeriggio di diciamo venerdì. Niente, quindi orari improbabili. Alla fine riescono ad andarci diciamo due condomini che sono sempre i soliti, e cioè non riusciamo mai a venirne fuori, insomma. E in più le spese condominiali che dovrebbe mandarci ogni anno per vedere, insomma, cioè vengono mandate ogni 2-3 anni, così a forza di chiedere si manda le spese condominiali. Cioè, volevo capire se Marco, cambiatelo, rivolgete Marco, mi scusi, adesso poi che sentiremo il nostro esperto, ma alleatevi e cercate un altro amministratore che vi venga un pochino più incontro. Dottor Bica, che dice? Sì, quando ci sono tutte queste insoddisfazioni? Il suo consiglio, non c'è dubbio, devono cambiare amministratore di condominio, è un amministratore inadempiente. Tra l'altro non c'è neanche necessità di riunirsi e fare un quorum preciso per poter chiedere la fine di questo diktat dell'amministratore di condominio. Un amministratore che non presenta per 2 anni consecutivi rendiconto può essere revocato giudizialmente, quindi anche sul ricorso di uno solo dei condomini. Questo è importante ricordarlo. Quindi l'amministratore deve essere un buon amministratore di questo tipo, non è un amministratore certificato. Va cambiato, è lì. Tra l'altro ci ricorda, a proposito di quorum, quali sono quei quorum necessari in assemblea per approvare i vari tipi di lavoro? Iniziamo da quelli di manutenzione straordinaria, ma ricordiamo tanto che ci siamo anche quelli ordinari. Quelli ordinari diciamo che sono previsti dal preventivo di gestione normalmente, e il preventivo di gestione viene approvato con un terzo dei millesimi della maggioranza degli intervenuti in assemblea. Questo in seconda convocazione, che è l'assemblea più ricorrente. Per tutti gli altri, quelli straordinari, così come la nomina della revoca dell'amministratore, la maggioranza qualificata, cosa vuol dire? Maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio. Questo sia in prima che in seconda convocazione, quindi non si scappa. Non si scappa. La maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentano almeno i 500 millesimi, se 1000 il totale dei millesimi. Allora andiamo a Maria Luisa da Milano. Buongiorno Maria Luisa. Sì, buongiorno. Buongiorno. Vi ringrazio. Anche a lei. Ci racconti cosa succede a casa sua? No, allora a casa mia non succede niente di quello che voi avete detto e anzi mi giunge nuovo. Però volevo cercare una spiegazione al perché certi condomini si trovano forse costretti ad usare lo strumento dell'assenza per invalidare le assemblee, comunque per non averle. E secondo me questo risiede nell'esosità degli amministratori. Ci sono amministratori che fanno del terrorismo la loro arma. Naturalmente, se a questo aggiungete quello che ha detto il signore di prima, che ci sono sempre i soliti due condomini che vanno a raccogliere le deleghe per poi presentarsi in assemblea a favore o contro una certa delibera, voi avete un quadro della situazione, per cui passano certi lavori assurdi, inutili se non dannosi, che dopo pochi anni dovranno essere rifatti, perché soltanto l'amministratore ha da lucrare su quello. E di fronte a questa situazione che non viene sanata, e gli amministratori sono tra l'altro aderenti all'associazione da cui sta parlando quel signore che voi avete intervistato, quindi i condomini disperati, veramente disperati, a questo punto non hanno altro, come posso dire, altro strumento per poter forse ritardare certe decisioni che loro purtroppo sanno che verranno prese a loro danno, ma che sono totalmente sbagliate, che non presentarsi in assemblea. Oh, questa è un po' la lettura di Maria Luisa che ci chiama da Milano. Abbiamo 10 secondi per dare una risposta brevissima a Maria Luisa. Dottor sì. Bica? Sì, in realtà l'amministratore non decide alcunché. È errata la convinzione che l'amministratore possa gestire i lavori o far deliberare in un certo senso. Se, insomma, non è Reuccio, non è il sovrano assoluto, anzi, riappropriamoci dei nostri diritti per una gestione serena ed efficace del nostro condominio. Grazie al dottor Bica, grazie a voi per averci seguito. Noi torniamo domani, torniamo perché torna anche Deborah e ci sarà un ospite d'eccezione. Scopritelo andando sulla pagina di Cuore Denari.